Mina bad boy king, siamo macchine su ring. Ogni fottuta rima scritta rimane dentro a un beat. Per ogni singola persona che mi ha sostenuto, mi sta accanto per ogni momento, per ogni pianto. Ogni barra che dipingo su questa tela, concetti di pace e speranza come Nelson Mandela. La vita è troppo breve per obbedire ad ogni risveglio, quindi vivi come pensi sia meglio. Se tutte le volte che guardi il cielo lassù, Tupac e Biggie ci portano un po' di oscuro, resta giù con la tua base nuova. Questo è il vero rap, quindi prendi appunti frate e ritorna a scuola. E se anche tu stai cercando la risposta, pensando che il mondo ora è senza sosta, niente da dire, non c'è una risposta in questo round, quindi vivi da number one. Tra queste pagine vivi solo tra lacrime, siete tutti uguali, parlate della stessa immagine. Cambiate il mondo con una protesta e gli altri ideali sono in violenza e voler fare il gangsta. Troppi versi per la strada, 12 anni che fanno underground, ma qual è la loro trama? La vecchia scuola rap torna nella mia città che ha risposto. Number one, Ravenna nel posto. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto. E non mi importa se qualcuno parla male di me, parla male ma perché, allora ascolta nel mio rap. In questo sottofondo scuro io non mi nascondo, ogni cosa che mi dite mi rafforza ogni secondo. Ho imparato a rappare esprimendo un pensiero, non a parlare di macchine troie. Sono sincero che se continuo con questo fottuto passo, farò di questo rap un vero e proprio spasso. Super big up per questa canzone, per Cripple Giga R, per i rega del Torione. E poco importa se iniziamo da pagina 1, l'importante è agire bene nel momento più opportuno. I miei testi su carta reagiscono chimicamente, ma non critichi i limiti critici di testi lirici che tritano la mente di questi ipocriti. Spingo questa roba ancora, quindi togli. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto. Originalità uguale a zero, spaccato, pezzi che rappate senza un significato. Potete farlo quanto volete, ma se copiate rime e testi come Venice Beach, rime segrete. Hai fatto strada con testi senza concetto, tu lo fai per soldi, io scrivo per il rispetto e lo ammetto. Con tutto questo mi sento sicuro e sarà anche onesto, ogni rima mi rende più puro. Tentano di tutto cercando di ingannarti con storie inventate che non sanno manco raccontarti. Tu che parli male del Bad Street Boy, poi canti ritornelli in strada ma nessuno cita i pezzi tuoi. Il number one di questa società non è quello che suda ma il figlio di papà. Ci uniremo formando una grande forza, zeria old school sound ti fa sballare in questa giostra. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto. Questo è il number one per ogni cosa che ho fatto, per i miei fra e per la gente che mi sta accanto. Adoro tutto questo, per ogni singolo aspetto, funky rhymes, GTR nel progetto.